Vangelo di San Luca, capitolo 17. Disse poi ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. Meglio per lui sarebbe che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare un solo di questi piccoli. Badate a voi stessi. Se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro te 7 volte al giorno, e 7 volte torna a te e ti dice, mi pento, perdonagli. Allora gli apostoli dissero al Signore, aumentaci la fede. E il Signore disse, se aveste fede quant'è un granel di senapa, potreste dire a questo moro, sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Or chi di voi, avendo un servo ad arare o a pascere, quando egli torna a casa dai campi, gli dirà, vieni presto e mettiti a tavola? Non gli dirà invece, preparami la cena e cingiti a servirmi finché io abbia mangiato e bevuto, e poi mangerai e berrai tu? Si ritiene egli forse obbligato al suo servo perché ha fatto le cose comandategli? Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dite, noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quel che eravamo in obbligo di fare. Ed avvenne che nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce, dicendo, «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» E vedutili, egli disse loro, «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» E avvenne che, mentre andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Iddio ad alta voce, e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra, ringraziandolo. E questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse, «I 10, non sono stati tutti mondati? E i 9 altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuori di questo straniero?» Egli disse, «Levati e vattene, la tua fede t'ha salvato». Interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo, «Il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà, eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è dentro di voi». Disse pure ai suoi discepoli, «Verranno giorni che desiderereste vedere uno dei giorni del figliuolo dell'uomo e non lo vedrete. E vi si dirà, eccolo là, eccolo qui. Non andate e non li seguite. Perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuolo dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione». E come avvenne a giorni di Noè, così pure avverrà a giorni del figliuolo dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il figliuol dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno, chi sarà sulla terrazza ed avrà la sua roba in casa, non scenda a prenderla, e parimente chi sarà nei campi, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita, la perderà, ma chi la perderà, la preserverà. Io ve lo dico, in quella notte 2 saranno in un letto, l'uno sarà preso, l'altro lasciato. 2 donne macineranno assieme, l'una sarà presa, l'altra lasciata. I discepoli risposero, «Dove sarà, Signore?» Ed egli disse loro, «Dove sarà il corpo, ivi anche le aquile si raduneranno».